essere contro dei soldi. Gente viziosa, fra, è tutta gente viziosa, sia uomini che donne, per carità, è una vergogna veramente, guarda. Poi adesso vogliono fare tutti quanti gli opinionisti, tutti quanti vogliono fare il reality, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, sempre perché? Perché vengono pagati bene, ecco qual è il discorso, per cui sono soldi facili quelli, senza fare niente tra l'altro. A me sinceramente questi tre tipi di trasmissioni io avrei addirittura abolito Mediaset, messo un poco, nonostante che Mediaset alle volte mi fa vedere delle partite. Io avrei abolito addirittura tutto Mediaset, come stende da Rete 4, Canale 5, Italia 1 e tutti gli altri canali che sono di sua proprietà, proprio perché mi fanno schifo quei canali lì, nel modo, per le trasmissioni che fanno, ma che dai, è proprio un troiaio e basta, pucci. Sì, ma quello tipo Rete 4 è 24 su 24, sempre dando queste cose. Io, quello lì, per carità, gente che parla, che fanno spaventare la popolazione, fanno spaventare tutti gli italiani, con questi vaccini, con queste cose, tutti sanno tutto, tutti sono ben informati, e nessuno sa un cavolo, tipo quel Jack Paul, che cazzo vuoi fare Jack Paul in Ivi? Che non comprende manco con la mamma 2, manco con la nannando, lo sa. Che pezzo di un finocchione, ma sono tutti così, tutti quanti questi, per carità, guarda. Ma dico io, anche il fatto dei medici che vanno lì a parlare di Covid, eccetera, ma non hanno mai i ricreditori, non ne hanno altro tempo da impiegare. Se fossero andati in ospedale a lavorare, anziché stare dalla mattina alla sera in televisione, perché se questi sono sempre in televisione, significa che il loro lavoro non lo stanno esercitando. Io la penso così, o perlomeno te lo fanno pensare, non lo so, io, boh. Tu vedi questi medici dalla mattina alla sera parlando di Covid, capita, dalle 8 del mattino fino alla notte tardi, sempre va vedendo le vite cose. Ma quando è che lavorano questi medici? Avranno pure le loro responsabilità in ospedale, a curare gli ammalati, eccetera. Nudo la va, sempre in televisione. Evidentemente sono pagati bene e allora continuano a presentarsi in televisione e a lasciare perdere il vero lavoro, che poi ritirano lo stipendio anche dalla sanità. Questo è ciò che è normale, no? E beh, però lo fanno anche i politici, lo fanno. Sono sempre in televisione, barini delle star sembrano in televisione, tutti i politici. Ma poi parlano i buonissi. Chi si, io non avevo tappetariti, penso un poco, per carità. Oggi come oggi non ce n'è uno in grado di mantenere la gestione come si deve della nostra Italia. Ma dai, che vergogna, capita. Poi cambiano idea da un momento all'altro, si negavano in luce fra di loro, visto anche in Parlamento tante volte, quando sono in riunione, si picchiano, si cude la cadria, ma non è possibile, dai, vedere queste cose. E poi mi vieni a dire c'è violenza il sabato sera, questi no-vax, ci sono che vanno a manifestare, ma ad esempio lo state dando voi stessi, voi i primi che siete lì in Parlamento, state dando ad esempio gli italiani, che siete sempre in guerra, sempre azzuffandovi, e allora non vi potete lamentare più di tanto se anche il popolo fa certe cose, fa carità, premesso che non sono cose da fare, sia ben chiaro, questo è ovvio. Guarda che quello che vediamo noi, che ci fanno vedere, per me è tutta finta, quella zuffatura, si azzuffano le lance, se non ce l'avrebbero fatte vedere, vai tranquillo che è tutta finta quella lì, e tanto per prendere per il culo gli italiani. Sì, proprio per cercare di tenere buoni, e tanto loro pensano sempre per la loro poltrona e basta, non c'è niente da fare. Praticamente non abbiamo un'amministrazione democratica come si deve essere, nel vero senso della parola, per carità, ci sono delle cose proprio assurde che io sinceramente non le accetto, non mi va, infatti tante volte io prendo e cambio quando li vedo cambio canale, mi cerco un film, mi cerco una trasmissione sportiva, insomma cose del genere. Intanto quando tu segui quelle trasmissioni, poi alla fin fine non sai nemmeno a chi devi dare ragione, perché ognuno dice la sua e ognuno accusa l'altro, sicché è più unito. E a un certo punto devi pensare, questi sono tutti uguali, praticamente pensano solamente a mantenersi la poltrona e basta. Infatti. E allora Barroso, ma per quello lì si stanno azzuffando, per la poltrona, più che altro no, per noi no, per l'Italia no. Ma gli italiani non le ha tutti in lunga, ci morimmo le fame, non le ha tutti in lunga. Allora sono sempre una poltrona, perché queste qua, queste poltronze, erano lì fuori, erano lì a... già dimenticati da ricade, invece no, ti chiamano là, sono entrati i torrelli, sono entrati, che si buffi di, ma lasciamo fare. Vabbè, quello sì. Vabbè, dai, devo scendere per la cena, dai, ci sentiamo. Ciao Franco, grazie per essere entrato a salutare e a scambiare due chiacchiere, ci sentiamo domani se coincide, tanto il tempo già a me non mi manca il tempo, per cui sicuramente accenderò, forse anche di mattina. Ci sentiamo Fra, ciao, ci sentiamo, grazie ancora per la chiacchierata, ascolta il violino e dopo chiudo che scendo per la cena. Ciao, ciao, ci sentiamo, buona cena, buon tutto, allora ci ascoltiamo le prossimine e io quando posso, che sono libero, me la accendo un po'. A meno che non c'è nessuno, allora rispengo di nuovo e me ne vado. Ok, ciao Giulia. Ok, ciao, ciao, Fra, ciao. Marcia lunghi e ieppe. Ho messo un altro 3 minuti, sono a casa, che però. Se arrivi qua. Attenzione, non ti brucio l'apparecchio, Ehi, attenzione, luce 74 watt in questo, Solo, mi adatta. Io sto uscendo con un watti. Portante bianca, 74 watt e portante bianca. Poi portante rossa, 99. Ma io chiamo in PMR. Ma su che canale sì? Canale 7. Strano, tanto non mi senti. Aspetta, qua si senti tu a me. Mi senti? Allora, adesso ti ho sentito, aspetta che è sconfuso. Ma non sei con l'antenna sopra il tetto? Aspetta che sto atterrando. Oh Luca, ci sei qua? Ehi, non ti sentivo, No, io ti ho sentito anche col secondo portatile, però è ribasso, E quelli sono 10 km. Quale? In linea d'aria, cioè, linea d'aria, 10 km di potenza. Fanno raggi 10 km in campo libero. Ma poco ci credo, guarda. Vabbè, queste che ho io saranno dati per un paio di chilometri. Vedi, giù a Santa Pisa ti arrivo. Perché lì dall'alto verso il basso, sì. Questa sera c'erano 10 pattuglie di municipale. Stavano seguendo una Fiat Uno rubata. Praticamente l'hanno mollata lì nel piazzale dove abita la mia 25, lì. 10 pattuglie seguendo la Fiat Uno e non li hanno presi. Ma va, la Fiat Uno. C'era anche la gomma buccata, non so se l'hanno sparata, Ma l'hanno rubata la 1, ho tanto ancora uno in giro ci sono. infatti sono rimasto malavviato pure io. Cazzo, ci tu fiat uno in giro, boh. Andiamo in cavata, andrete anche al garage. Non lo so. Comunque si è passata a manetta, anche contro mano la polizia. Cazzo, 10 pattuglie, tu devi vedere i buchi sbirri che virano, è allucinante. Ebbene, non li bisegati. Eh no, perché sono entrati lì dove abita la mia compagna, nei parcheggi. E se ne sono scappati. Via, via. E sono visitato la vigilessa. Ho detto, prego. Ha visto qualcosa? No, non ho visto niente. Te l'ho chiesto. Allora. Perché l'ha facciato? No, sono sceso a curiosare quello che stava succedendo. Mi ha chiesto se avevo visto qualcosa. Ma carità, ragazzi. E beh, sei pure intelligente, no? Tu cosa ne dici? Sì, che sia che cosa te lo devo dire? Ma infatti, cazzo, io ho visto mia mamma la puttinuta. Io sono sceso così a curiosare. Comunque ho visto che era un po' sbattuta davanti e l'hanno portata via la macchina. Eh beh, certo, avevano dato caratrizi. Sì. Cazzo, ma dimmi tu. Senti, tu sono tutti di sirene, tanda, boh, ci tu vai su sirene. E poi ho visto che si sono fermati lì sotto casa di Marina. Gabagata. Ascolta, non so che mi arriva più forte Carlo di te. Sapevo che ti dica. Sicuramente lui avrà anche una puntata. Vabbè, tu sai che io sono un po' nascosto da sua parte, anche se siamo vicini. Sono nascosto. Vabbè, qualche ostacolo già c'è davanti, dai. No, vabbè, comunque sì, un segnalone, sì, è molto forte. Però lui è un po' più forte. Il più forte che mi arriva fino adesso che ho sentito è lui, giù in zona Sacro Cuore. Sacro Cuore? Non si chiamava Carlo, mi sembra di sì. Giù in zona Sacro Cuore mi ha detto io sono. Poi c'è anche il QTH in campagna, dei genitori. Però l'ho sentito prima in Bieve, poi l'ho sentito a casa. Ma da casa arriva una fucilata qua. Io so che abita Luna e Sole, non a Sacro Cuore. Allora sto sbagliando nome, ma mi sembra che è Carlo, sto sbagliando stasera in radio anche, arriva forte, proprio arriva sopra lo zero, tu sei prima dello zero, sei alla fine del 3. Io so che abita a Sacro Cuore, ma Luna e Sole, ho un dipolo, poi l'altro non so, non lo so, ma la maletta me la ti dico. Io, vabbè. Stavo aspettandomi, se ne è la pasta. Oggi faccio un po' la cacciatora, serio, adesso mangiamo. Davvero non posso mangiare nulla, mi sono fatto un po' di bastoncini Findus. Li ho fatti al forno, piano piano me li ho fatti a pezzettini piccolini, con un po' di maionese. Poi se ci ho mangiato, un pezzettino di formaggio, no, ma formaggio non ne ho mangiato. Però ci ho mangiato, dopo manco mi rammetto, bastoncini, la maionese, poi con frutta. E basta. Ma la forza la prima ancora no. Adesso io vedi mi levo nei punti. Poi vediamo. Sto mangiando i bastoncini Pintus. Quello di Colorado, Pintus. Ma che vabbè. Ma non c'è nessuno nell'ascolto, vuol dire che il porco che vuole entrare. Con la buonasera. Comunque c'è meglio questa qua dell'altra, Che cosa? La radio. Di che cosa? Ho detto che c'è meglio questa qua di quella che ti hai comprato. Sì, infatti è questa. Non carie, il presidente è questo, dai. Hai cambiato microfono? No, microfono sempre lo stesso. Boh, allora il baracchino mio, quello di giù che riceve male. Guarda, mi senti, questo è il presidente. No, salve, là giù che riceve male, non lo so. Poi se arrivi troppo forte mi vai un po'... Qua ti ascolto bene con questo baracchino. Non lo so. C'ho stazionaria, non sono riuscito a trovare la chiavetta. Ce le ho alte. Alte quanto? Alte, Lucarie, passaggi corti devo fare, 2.5. Vabbè, il piano di massa pulito. Come? Il piano di massa pulito, Sì, ma secondo me non è manco sufficiente per quell'antenna lì. Capito, quelle sono scogitate per mettere su la capota, non per attaccare un pezzo di ferro. È vero. Ma potresti farti un lamierino, già fa massa. Questo è il lamierino in acciaio, capito? Se no lì, guarda, io sono sicuro si piazza una boomerang e va tu bingo. Vabbè, comunque niente ne ce li hai. E la matto va ritiratela. Oh, domani vado a vedere se... Perché mi ha detto, ma se c'è fretta, perché siamo più di lavoro? Non ho fretta, basta che non me la date fra un mese. Ma ti sta facendo pagare, sì, o no, gratis? Gratis. sto carriere, oggi giorno a gratis, manco farebbe da culo, figli. Adesso senza dubbio. Infatti adesso la mia la butterò a terra l'antenna. La butterò a terra, adesso no, a nuovo anno, dai. A nuovo anno la butto a terra, la pulisco, vediamo un po'. Voglio vedere un po' la situation. Infatti Claudio mi ha detto che dovrei abbassare la cosa, la, come si chiama, la spirale, per abbassare un po' le stazionarie. Infatti ce li ho, ma sono basse, vedi, a 1, 1 e 1, ma no, 1 e 5, 1 e 6. E io gara, aspetta un attimino, un secondo. Oh cario, che si cambia passo. Eia, questo qua non capita ventosa. Adesso io mi sto studiando tutte quante le modifiche dell'apparato mio, capito? Quello rotto, quello incentrato mio, adesso ti mando un video. Ehi, aia, prova a salvare. Magari ci riesci, ma so che quando fanno le modifiche modificano anche qualche componente lì dentro il baracchino. Fanno delle aggiunzioni di condensatori, capito? Siamo sovraccavallati, Lucari. Ho detto che quando fanno le modifiche ai baracchini fanno aggiunzioni di condensatori, di diodi, capito, cose così, resistenze. Ho capito, Lucari. Ma non mi senti? No, perché c'è la mia figlia, dimmi. Ho detto che quando fanno le modifiche ai baracchini che cazzo è? E fanno aggiunzioni di cose, di diodi, capito, condensatori, studiatelo bene. No, non ti spiego. Le modifiche sono state effettuate sulla scheda, quindi io di lì, sto già inquadrando, Lucario, vai tranquillo che io quando mi muovo le faccio le cose. Io quelle modifiche le trasferisco. Io all'epoca lavoravo piazzata la scheda dell'eco, perché per farla così colto ci andavano fatte delle modifiche sopra la scheda e dovevi avere i valori dei componenti che io avevo, capito? Però ora trasferire queste modifiche che io vedo tutto quello che c'è non è un problema. Me la prendo con calma e me lo faccio, capito? Al limite per avere un baracchino in ricezione, adesso vedo, lo busco un baracchino. Se ne ho regalato tanti di baracchini a Roberto che ne ha giocato 3. Adesso vediamo, magari ne faccio prestare uno. A Roberto, quell'amico mio che fa le gare col fuoristrada, ne faccio prestare uno, così quello lo uso per ascoltare e trasmettere, e nel frattempo mi modifico questo. Aspetta, ti sto mandando una foto. Cazzo, guarda quanto è più bello il mio. Cioè il mio, il primo, quello che avevo prima, il Jackson cromato. Infatti io prendo e li trasferisco il frontale. E fai così, le manopole grigie, già è facile farlo, quello sì. Però per quanto riguarda le modifiche, non lo so, boh. Io personalmente non l'avrei toccato io, poi se te la senti fallo. Ehi, te lo faccio vedere, Luca, non ti preoccupare. Senza fretta, non ne ho fretta, no. Adesso prima mi interessa sistemare bene l'antenna e far andare anche questo microfono da tavolo con questa apparecchio. Non ci sei riuscita ancora. Ah, salve. Non ci sei riuscita a farla andare. No, guarda, mi sto attaccando anche adesso, ma secondo me è perché c'ha le stazionali alte e quindi questo microfono va in disaccordo. Oppure un'altra soluzione che c'ha poco filo di massa il microfono. Capito, devo aumentare la massa, perché c'è un filino fine, piccolo piccolo, mezzo buco uguale, capito? Dove l'attacco? Mi senti? Ehi, ma è cuppa. Come? È cuppa. Adesso mi senti, ora. Peggio. Ma, mi senti? Ehi, è cuppa. Barattolosa, me. No, c'è la cuppa. C'è la di capra. No, ciao, poganino, vuoi scimale. Da là non si scende. Cosa che non va, cambia. Eh beh. che mi chiama frate che è sono in forma, che ne ho voglia dopo, che era, non lo so, guarda, io metto, facendo il paletto, quindi dopo moltiplicarmi con te, ho accenato ancora, eh? Non hai accenato ancora, no, mi ero chiamato, ma non sono ancora andato, e vai, no, cazzo, rimani roba fredda, e a te ti mando la foto di questo, sì, perché mi prende, che... E poi ho anche un altro della Intec, che sempre amplificato, però questo qua 9 volte, l'altro è 1,5. Sì, ma quello me l'ha donato Walter, che è tanto più qua. Ah, 16, cazzo, adesso che invece. Allora, 24 c'ha invece l'Ecco, che mi ricordi io, il bip mi pare, boh. Sì, ma chi sono invece? Chi che l'ha comprato il negozio? Questo l'ho comprato nuovo il negozio, intanto. Dico vecchio, non vecchio di coso, di tanti anni fa questo microfono, capito? Di tantissimi anni fa. Ehi, allora, beh, certo, è da tanto, però il microfono funzionava bene. Ah, io non ho capito perché l'avevo così d'accordo con questo microfono qua, questo microfono a tavolo, no? Io la batteria l'ho comprata nuova, però adesso dopo mi chiudo alla volta. Guarda, la batteria è fasulla, l'ho comprata al 2000, magari è studiata, tanto che si segna le 9 e si segna 7, e capito, dopo essere, dai Luca, io ora vado a mangiare, al limite ci sentiamo dopo, se no è così. Va tranquillo, va. Io lo lascio acceso, se non mi addormento già, ci sentiamo dopo, sennò domani, ciao, domani, domani a pranzo. Come non è entrato nessuno, dai? No, ma canto il bombolino, nessuno, non lo so. Antonio, io da quando sono rientrato in frequenza, Antonio ancora si trova a volte. Vuol dire che è fatto stanco a casa, non ha accesso. Bombolino, ci sei. Aspetta, bombolino o bomboletta? Salutamolo comunque, senta. Dai, io vado a mangiare adesso due cosette e al limite dopo, tanto qua la faccio. Dai, ci sentiamo dopo. E chi è che vuole entrare?